Quello che vedo è che l'Europa sta armando le braccia senza utilizzare la testa, per semplificare. Cioè c'è un grande slancio che in realtà era in corso da anni e che viene alimentato e giustificato con le ultime mosse di Trump, slancio volto a finanziare i colossi dell'industria militare, che non a caso ieri pavlovianamente hanno risposto con i titoli che si sono impennati in borsa. Però a fronte di questa presunta emancipazione militare, in realtà non c'è assolutamente un'emancipazione politica e strategica da quello che Trump sta facendo. L'esempio più eclatante è il premier britannico che fino a ieri davanti ai parlamentari si diceva sicuro che Trump non avrebbe tagliato gli aiuti all'Ucraina, che volesse davvero la pace, che fosse tuttora il principale partner. Ma anche gli europei non scherzano, perché è imbarazzante pensare alle scene di un Macron che va da Trump con attitudine seduttiva, gli dà le pacche sulle spalle, ginocchio contro ginocchio, e ci dice a portata di telecamere e giornalisti: non vi preoccupate, ho convinto Trump a dare le garanzie di sicurezza. Un corno, cioè, a parte il fatto che in quello stesso istante Trump lo ha smentito, ma abbiamo visto che altro che garanzie di sicurezza, Trump ci sta dando garanzie di insicurezza. Chiaramente qui il tema va molto oltre il dossier Ucraina, riguarda il futuro dell'Europa, però qualcosa sul dossier Ucraina lo dovremmo dire. Finché c'era il presidente Biden, che era almeno insomma nella prima parte del suo mandato chiaramente schierato con Kiev, c'era stata tuttavia molta prudenza riguardo alle cosiddette linee rosse, cioè il tema per esempio se inviare o no missili a lungo raggio, se fare o no azioni che avrebbero potuto implicare un coinvolgimento diretto della NATO o degli europei. E all'epoca avevamo gli Stati Uniti alle spalle, adesso si parla di un'Europa che va sul campo senza queste garanzie. Allora noi rischiamo di imbarcarci in una guerra di logoramento che logorerà innanzitutto noi. Chiaramente gli Stati Uniti di Trump hanno grandi responsabilità in questa storia, e non è la prima volta che gli americani ingaggiano tutti, poi se la svignano e sta a noi pagare le conseguenze. Io non ricordo una sola storia finita bene, allora un po' come in quel finale di Pretty Woman dove Julia Roberts chiede alla sua collega: ma tu ti ricordi una storia finita bene? Allora, Siria, Libia, Afghanistan, ricordiamo storie finite bene? No, solo appunto nelle fiabe. Quindi c'è un punto di dove stiamo andando, e poi c'è la questione fondamentale, cioè questo piano di riarmo, che è già imbarazzante a sentirlo dire in modo così spudorato, perché l'Europa era nata per disinnescarle le guerre, rischia di trascinarci nel pantano politicamente e militarmente e socialmente, e rischiamo di fare proprio il gioco di Trump e Putin. Cioè questa operazione di riarmo fa il gioco di Trump e Putin. Io voglio un'alternativa politica e voglio dei dirigenti all'altezza del progetto europeo, perché si parla tanto di europeismo, ma secondo voi una presidente di Commissione europea che decide di ammazzare le politiche di coesione, che erano il clou dell'integrazione europea, perché sono quelle politiche che ci consentono di ridurre i divari, in nome delle armi sta salvando il progetto europeo o lo sta sabotando pur con giacca e cravatta, come si suol dire? Proprio su questo ti faccio una domanda, perché il paradosso è che le forze più reazionarie di destra, Trump in primis, passano per quelle che vogliono la pace. Nell'opinione pubblica questo può rafforzare le posizioni della destra, anche in Europa. In tanti modi quello che sta succedendo rafforzerà la destra estrema, in svariati modi, perché chiaramente quando togli alle persone il welfare crei delle nuove fasce di esclusione sociale, crei rabbia e quindi, come dire, dai in pasto ai populisti altri voti. Tra l'altro questi fantomatici populisti sono contro i piani di coordinamento europeo. Ieri Marine Le Pen ha detto: col cavolo che daremo il nostro ombrello nucleare agli altri. Quindi ci sono delle forze sabotatrici già dentro l'Unione Europea. Il problema è che finora la politica mainstream, chiamiamola così, centrodestra, sedicenti liberali, ha gridato al lupo, ma di fatto ha favorito l'ascesa di questi partiti, proprio con politiche neoliberali che esasperavano l'esclusione e la rabbia sociale. Nel momento in cui noi inseguiamo Trump, quindi dedichiamo le nostre risorse che ci rendevano unici, la coesione, il welfare, a impelagarci in una guerra che con questi presupposti non può finire bene. Cioè, gli europei dovevano inchiodare Trump al tavolo e dire: tu ci hai portati fin qui, adesso resti. Ma la cosa che mi ha fatto veramente più scioccare è un episodio che può sembrare marginale in tutta questa vicenda, ma secondo me è giusto che l'opinione pubblica ne sia al corrente. L'episodio di Nord Stream 2. Allora, ai tempi di Angela Merkel, gli Stati Uniti avevano fatto grandi pressioni perché il gasdotto Germania-Russia non partisse. Mi ricordo ancora le trattative, prima ancora che la guerra in Ucraina deflagrasse, con Merkel che cercava di resistere, di far partire questo progetto. Quando la guerra è iniziata, chiaramente si è posto il tema delle forniture russe. A un certo punto c'è stato il sabotaggio di Nord Stream 2. Insomma, sulla natura di quel sabotaggio non voglio entrare, però insomma bisognerebbe riflettere anche su quello. Dopodiché, negli ultimi giorni è uscita la notizia su giornali economici di tutto rilievo come il Financial Times che in realtà pare che Trump e Putin stiano anche discutendo dell'ipotesi di riattivarlo con gli Stati Uniti che fanno da fornitori di energia all'Europa. Allora, questo dà proprio l'indice della situazione paradossale in cui noi ci troviamo, cioè gli Stati Uniti che avevano insistito per aumentare la cesura tra Europa e Russia, che adesso fanno gli strozzini di gas russo agli europei. Cioè, se questo scenario davvero si realizzasse, ci darebbe anche il polso dell'inezia della nostra leadership. Secondo me serve una leadership europea all'altezza, perché qui noi possiamo anche riarmarci, ma serve una testa per decidere in quale direzione combattere e come.